Caracciolo, detto in maniera un po' brutale, al di là del nostro provincialismo o del nostro asse atlantico, sono più importanti i rinnovamenti ai vertici cinesi in questo momento o, diciamo, tutta l'enfasi che abbiamo messo su Barack Obama? La risposta è nella domanda, direi. È ovvio che quello che in questo momento può cambiare il corso degli eventi è il rinnovamento in Cina. E il discorso piuttosto forte e drammatico che lei ha citato di Hu Jintao promette che il cambio sarà piuttosto importante e probabilmente faticoso. Immaginare che il PIL raddoppi, per essere precisi, dal 2010 al 2020, cioè immaginare un tasso di crescita del 10% ogni anno, è evidentemente piuttosto fantastico, almeno vista la situazione attuale. Ma quello che conta, io credo, è l'obiettivo di costruire finalmente una qualche forma di Stato sociale in Cina, senza del quale non si può parlare di stabilità e di crescita e nemmeno di domanda interna. Cioè la regola per cui se tu hai l'assistenza sanitaria per tutti, pubblica, riesci anche ad avere una spesa più alta, cioè avere dei consumi più, mi passi il termine, occidentali, quello poi dovrebbe portare a un altro passaggio che mi è sembrato importante, Caracciolo. C'è un fatto, cioè che oggi i cinesi, che non sono tutti ricchi come qualcuno immagina, sono costretti a mettere da parte il necessario per le cure mediche, per la scuola, per mandare i figli avanti, perché non c'è quel minimo di assistenza che c'è nel resto del mondo sviluppato, almeno dovrebbe esserci.